lungo strade che tu non conosci. Perché smarrirti non vuoi nel mondo che temi, lo so. Tu stringiti a questo mio cuore, rilassati un po'. Ti darà tutto quello che vuoi. Stasera rimani con me, ti tengo nascosta nel cuore. Abbracciami, fammi il piacere, tu amami ancora. Gli occhi tuoi non giungono a vedere le lacrime che tutti quanti piangono, è un bimbo che non trova più sua madre. Dove, dove, dove, dove? Un cespuglio e non sa che questo mondo vuole amore, ma cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Nessuno lo sa. Nascosto dietro ai rami di un cespuglio, non sa che questo mondo vuole amore, ma cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Nessuno lo sa.